Radio 24 Reportage. Torino Mirafiori, apatia e rabbia, di Cristina Carpinelli. Il quartiere, diciamo che si sta un pochettino trascinando su problemi che durano da diverso tempo, che nascono probabilmente dagli anni 60 e vanno avanti. Il quartiere è tutto. La strada è la casa, la famiglia, gli amici. È la storia di tanti, la storia che ci racconta Marco Boscaglia, che nella cooperativa Mirafiori Sud, periferia torinese, si occupa di politiche giovanili. Il quartiere è fatto di palazzi tirati su in un soffio, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Edilizia popolare, strade che incontrano palazzi, vicoli che attraversano portici che sfociano quasi senza senso in piazze che non sono piazze e che di sera diventano parcheggi d'auto e luogo d'incontro per i ragazzi. Perché così si vive a Mirafiori Sud, nucleo alla periferia di Torino, dove negli anni 60 arrivavano i figli di un sud contadino e qui quei ragazzi si fermavano, si sposavano, mettevano al mondo figli e si trasformavano in operai della Fiat, pagati a cottimo, svegliati all'alba, padri e madri che faticavano per i loro figli, strappati dalla loro terra in affanno per ricostruirsi un'identità. L'identità sociale si spalmava così sul quartiere, gente che dal sud si è portata dietro sogni e amarezze e li ha messi in fabbrica, passando poi il testimone ai figli. Quella storia pesa ancora su questa gente, su questo quartiere che ha al suo attivo dei record. Ce lo spiega Marco Boscaglia. Un quartiere che per esempio non è stato investito da un'immigrazione giovane e esterna come altri quartieri di Torino, quindi non ci sono immigrati dal Maghreb, dalla Romania, che sono le comunità più forti a Torino. Da un certo punto di vista è un quartiere che sembra vecchio. Anagraficamente è vecchio, perché adesso non ho i numeri alla mano, però la popolazione invecchia molto e nelle 10 circoscrizioni amministrative di Torino è il quartiere più vecchio. E quindi c'è anche un fenomeno di spostamento dei giovani nel momento in cui raggiungono l'autonomia. Si spostano verso altri posti di Torino. È il quartiere con più soggetti in capo ai SERT, del quartiere con più soggetti in capo alla neuropsichiatria, al servizio di igiene mentale. Record di tossicodipendenze e malattie psichiatriche, dunque. Famiglie sfaldate, apatiche, senza neppure più la rabbia per portarsi avanti. Eppure in questa selva di grigi palazzi, con gli intonaci che vengono giù, ci sono i ragazzini, i bambini, con gli occhi svegli, la parola svelta, il sorriso, la leggerezza che spaventa perché dietro si intuisce dolore, solitudine. Ed è qui che inizia la storia, storia di disagio giovanile, come sbrigativamente la si chiama. Storia di droga, apatia, grigiore, ma anche risorsa, spinta, rabbia che ti fa correre via da quello che potresti diventare. È la storia di Davide, 23 anni. Abito qui nel quartiere di Mirafiori da 23 anni e lavoro presso la cooperativa perché ho scelto di fare servizio civile quest'anno tramite una proposta nata per degli incontri occasionali per il teatro, perché sto di fare uno spettacolo. Da lì sono nate delle collaborazioni, tant'è che adesso mi ritrovo qui a fare servizio civile. Nascere e vivere qua dentro, diciamo che ci sono state delle grosse difficoltà, perché io vivo qui da 23 anni, la mia adolescenza l'ho passata per strada, come anche i miei fratelli più grandi, che mi hanno molto assistito da questo punto di vista qui, però siamo nati per strada e tuttora la maggior parte dei giovani si ritrovano a vivere per strada, no? Perché è un posto, è la nostra casa tutto sommato. Io la rivedo così questa immagine, che non è un'immagine del tutto pessimistica, perché come posso ben testimoniare io con la mia esperienza, mi ritrovo adesso a fare scelte di vite concrete, dove ho saputo cogliere magari alcuni aspetti della strada che mi potevano aiutare o salvare da determinate situazioni, e quindi adesso posso dire che comunque, per quanto ci sia una situazione di come dire, di difficoltà all'interno del territorio di Mirafiori, comunque non è così automatica una situazione di difficoltà, ecco, cioè nel senso ci sono delle risorse, ecco, per la quale uscire, no? La strada è anche piazza di spaccio, con i ragazzini che si imbottiscono ad ogni genere di droga. Li chiamano poliassuntori e nessuno li vede più come i tossici eroinomani degli anni Ottanta, però il problema è uguale, se non più grave. Ancora Marco Boscaglia della cooperativa Mirafiori Sud. qui in quartiere c'è un forte uso giovanile della cocaina, abbinato poi a cannabinoidi, acidi, droghe chimiche. Anche qui questo è un problema che c'è. Il quartiere, quando ti dico che è un po' vecchio, non solamente dal punto di vista anagrafico, volevo dire prima, per esempio, riferito a questo problema, questo è un quartiere in cui c'è ancora la piazza. Allora, la piazza dove si spaccia, qui a Torino almeno, è diventata una roba che non esiste più. Ormai lo spaccio funziona a reti, cellulare, ci vediamo lì, ad eccezione fatta dei centri di spaccio grossi, centrali, vicino a Porta Palazzo, che è il quartiere di Mercato, in Corso Principio Oddone, però quello è uno spaccio che è in mano a non italiani. Mentre invece qui c'è ancora la piazza col quarantenne degli anni 80 che fa già la roba, i ragazzini che fanno la staffetta che ogni tanto li arrestano. Quindi ci sono dei meccanismi che, non so come dire, anche da questo punto di vista non si sono sbloccati. E per questo c'è un quartiere vecchio. D'altro canto però l'altra cosa forte di questo quartiere è che c'è un certo tessuto sociale che regge. Stare per strada, vivere infanzia e adolescenza da soli, appesi a qualcosa senza che nessuno ti dia una mano, un senso, una regola, è faticoso e può essere devastante. Lo dice Davide, che la sua vita l'ha trascorsa qui, a Mirafiori Sud. Il più delle volte eravamo in situazioni particolarmente difficili, no? Tra amici ci trovavamo in difficoltà, avevamo dei grossi problemi di socializzazione, di integrazione, del rispetto dell'ambiente, ma semplicemente perché non c'è mai stato nessuno che... Comunque, sia all'interno probabilmente di casa nostra che all'interno della nostra seconda casa, che poteva essere la strada, ci educasse a vivere la società, a vivere l'ambiente, a vivere le relazioni, a crescere in maniera sana. Ci sono gravità diverse rispetto a quando ero io piccolo. All'interno di Mirafiori Sud c'è molta microcriminalità, cioè nel senso criminalità basata sullo spaccio, anche di ragazzi e adolescenti dai 14 ai 17 anni, e sostanze stupefacenti come potrebbe essere la marijuana, il fumo e raramente, in realtà da pezzi più grossi, anche la cocaina. Quindi questo è un po' l'aspetto più grave, quindi si inizia ad avere a che fare con uso di sostanze già da una situazione molto più giovane rispetto a quando ero io, che quando ero io piccolino in realtà gli interessi erano tutt'altro e di gravità quasi alla pari, ma comunque con una finalità diversa. Cioè, mentre uno adesso si occupa di spacciare, di fare uso di sostanze, magari una volta si pensava a rubare, spaccare tutto, a continuare a finire a fare entri e esci da determinate situazioni. La differenza è che stavolta la situazione del territorio è un po' più protetta, ci sono molti più interventi, la gente lo sa, i ragazzi lo sanno, ne sono al corrente, quindi possono sempre scegliere di poter fare uso di questi interventi. Tra le scelte che un ragazzino può fare per salvarsi la pelle e uscire dalla strada c'è la cooperativa, una onlus nata grazie alla partecipazione del Comune di Torino e della Fondazione Vodafone, che lavora nel quartiere da anni ed è una risorsa reale e praticabile. Nata negli anni 80, la cooperativa Mirafiori Sud è cresciuta nel territorio diventando un riferimento per tutti. C'è una sala prove, un teatro, un'area di svago e un sacco di iniziative. Così negli anni la sede della cooperativa, che è un ex istituto per ascensoristi, è diventato un punto fermo per i giovani. I ragazzi arrivano e restano a suonare, a recitare, a cercare una via di fuga. Ancora Marco. Da questo punto di vista siamo molto radicati, quindi abbiamo molti riferimenti in quartiere, conosciamo molti ragazzi, anzi siamo alla seconda e terza generazione di ragazzi che seguiamo, inteso come stiamo già seguendo qualche figlio di qualcuno che a nostra volta seguimmo negli anni passati. I fratelli minori, cioè insomma, qui noi ormai dall'88 a oggi conosciamo molti ragazzi, quindi c'è uno scambio talmente forte col territorio che ad esempio il Centro Giovani, finanziato da Vodafone, è un progetto molto forte che sta diventando sempre più forte anche a livello torinese. C'è un progetto in cui appunto il pomeriggio c'è la sala prove piena, una sala in cui ci sono 10 breakers che ballano, mentre di là ci sono i tamarri che giocano a calcetto, poi la sera inizia il concerto. Insomma, c'è un afflusso molto, molto grande. cioè tu gli dai uno spazio, i ragazzi arrivano, magari te lo distruggono, come è anche successo a inizio progetto, perché c'è stata tutta una fase di assestamento, autoregolamentazione, formazione, eccetera eccetera, però i ragazzi ci sono. Cioè, i ragazzi qui, per andare, quando vanno in centro, dicono ancora vado a Torino, come se Mirafiori fosse un comune in provincia di Torino.